Buongiorno, mi chiamo Claudio Ancillotti e sono responsabile web marketing. La nostra agenzia dedica molte risorse nella ricerca in internet per fornire alle aziende opportunità di business e soprattutto utilizzare internet in modo intelligente. Molte aziende hanno quindi investito in nuove strategie quali blog, blog marketing, corporate blog, utilizzando canali RSS come fonte strategica di comunicazione e marketing. Nell'era della globalizzazione, internet ha abbattuto le distanze fra la gente. Nascono nuove figure altamente professionali, come Global Promoter, Web Agent, che promuovono la vostra azienda, il vostro marchio e i vostri prodotti nei marketplace internazionali dove avvengono scambi B2B. Di recente si sente l'esigenza di organizzare in modo intelligente le migliaia di informazioni circolanti in rete, per non subirne passivamente. Nascono nuove figure, come i News Master, che organizzano le informazioni provenienti dalla rete adottando strumenti come RSS Radar, RSS Advisor. Quale sarà il futuro di internet? Bene, gli strumenti che utilizzate nel vostro PC quotidianamente, di giorno in giorno passeranno nella rete. Internet diverrà una sorta di grande PC dove poter lavorare in modo collaborativo in una sorta di social network. Io e la mia agenzia avremo il piacere di accompagnarvi in questo percorso fatto di emozioni e di successo.